Di solito gli scrittori non vedono di buon occhio il tentativo di insegnare ad altri a scrivere romanzi e racconti. Tendono a guardare dall'alto in basso i corsi di scrittura creativa, come vi si chiamano adesso, con un'espressione tratta da uso accademico americano. Non è un atteggiamento generalizzato, ci sono delle eccezioni importanti, per esempio quegli scrittori che corsi di quel genere vi tengono, ma è opinione corrente che a scrivere ciascuno debba imparare da sé, se ci riesce. È un portato quasi inevitabile di quasi due secoli di dominio idealistico nel campo dell'estetica, soprattutto di quella letteraria, con la relativa diffusione di una massa di concetti capestro come ispirazione e cose del genere. Per non dire che d'impianto rigorosamente idealistico è anche la struttura della nostra scuola, dove infatti la capacità di scrivere in buon italiano è richiesta, forma oggetto di apposite prove, è valutata senza che nessuno senta la necessità di fornire ai discenti un rudimento qualsiasi in materia. Ma naturalmente può darsi che la diffidenza dei professionisti derivi semplicemente dal legittimo desiderio di non aumentare la concorrenza in un campo già abbastanza affollato. Sia come sia, il bisogno di imparare a scrivere, per quanto mal visto a livello professionale e non previsto in ambito scolastico, è abbastanza diffuso da far nascere delle iniziative che pretendono di soddisfarlo. Proliferano i corsi liberi, ce ne sono un paio anche a Milano, io ne ho sentito parlare abbastanza bene, cresce la produzione di manuali, si moltiplicano i libri di testo. Adesso un corso di scrittura creativa è arrivato addirittura in edicola, sono 9 volumi a dispensa in 80 fascicoli, editi dalla principale casa del ramo dispense, dico, è una casa che fa parte da qualche anno del secondo gruppo editoriale del paese, e promettono di guidare gli aspiranti scrittori tra i misteri della trama, dei personaggi, del dialogo, dell'ambientazione, dei generi, delle tecniche, insomma, di insegnargli tutto quello che è necessario insegnare e di proporre anche un adeguato corpus di esercizi. Ecco, io mi considero uno scrittore ogni tanto, ma non ho mai creduto nell'ispirazione e in compenso credo abbastanza nell'insegnamento per non scandalizzarmi di fronte a un'idea del genere. Io non so attraverso quale metodologia gli autori intendano mantenere le loro promesse. I primi due fascicoli che sono in offerta a prezzo speciale a 1900 lire, poi a quanto mi è sembrato di capire dal piano degli abbonamenti passeranno a costare 5400 l'uno, più 11.500 per ciascuna delle 9 copertine e 11.500 per il cofanetto destinato a raccogliere gli inserti sui generi letterari. Per fortuna c'è un abbonamento privilegiato che garantisce il 20% di sconto sul prezzo di copertina e anche l'invio di uno splendido orologio in dono, che è quanto di più necessario uno scrittore si possa immaginare, no? E dunque, stavo dicendo, i primi due fascicoli appaiono un pochino generici, nel senso che contengano degli aforismi un po' a pera, ecco. La felicità di chi scrive è un pensiero che riesce a diventare sentimento, ed è anche un sentimento che riesce a diventare pensiero, l'avrà scritto Thomas Mann, vabbè, ma non aiuta moltissimo. Contengono anche dei consigli un po' criptici, come il vostro compito è quello di dare qualcosa in più, in modo che il vero contenuto della storia sia rinchiuso nel suo interno, vabbè, chissà cosa vuol dire. Però siamo appena all'inizio e non è escluso che i prossimi fascicoli si decidano a venire al sodo. Insomma, se non fosse per un piccolissimo particolare, io sarei disposto ad augurare all'iniziativa tutto il successo possibile. E veniamo al particolare, è rappresentato da un talloncino in alto a destra della copertina che annuncia un concorso letterario Nuovi Talenti riservato ai lettori. La prossima uscita, 2 febbraio, offrirà la scheda di partecipazione e il regolamento. Come si legge in un volantino chiuso all'interno, uno dei primi ostacoli che incontri quando hai scritto qualcosa è quello di trovare la strada per fartelo pubblicare, il che è sostanzialmente corretto. E la nuova iniziativa ti vuol dare una mano anche in questo e ha pensato a un concorso letterario riservato ai lettori. Sì, sono previste 2 fasi, I migliori racconti inviati saranno pubblicati nel volume allegato al fascicolo 20. Mentre per inviarci il tuo romanzo, si dice, Avrai tempo fino al settembre del 96. Così potrai rivedere il tuo testo con tutta la serenità e la tranquillità che occorrono a un autore. Ecco, come particolare, non è così piccolo, perché vedete, questo non è un surplus, non è un qualcosa offerto in più dai promotori del corso ai loro allievi più fedeli, è la chiave dell'intera operazione, commercialmente parlando. Il massimo desiderio di chi ha appena scritto qualcosa, si sa, è quello di essere pubblicato, ma questo non dovrebbe fargli dimenticare che normalmente, nel sistema economico-culturale in vigore, insomma, nella società capitalistica post-industriale, la pubblicazione avviene mediante la cessione dei diritti dall'autore all'editore, che vuol dire che è l'editore, quale che siano i suoi scopi, che paga l'autore un tanto per poterne pubblicare l'opera. Ogni volta che qualcuno ti propone il procedimento inverso, prospettandoti l'ipotesi di sborsare qualcosa tuo, di comprare qualcosa o di iscriverti a qualcosa per avere il privilegio di vedere il tuo nome stampato, è illecito diffidare un po', perché esiste tutto un vasto settore truffaldino di pseudoeditoria, quello che il nostro Felice in una sua inchiesta di una trentina d'anni fa definiva l'industria del genio italico, se non mi sbaglio, no? Un vasto settore truffaldino che campa benissimo producendo a spesa dell'autore libri destinati a non essere né distribuiti né promossi, in sostanza a non essere pubblicati, ancorché stampati, che non faranno mai entrare l'autore in questione per quanto meritevole nei circuiti della Repubblica delle Lettere. Perché, in sostanza, essere pubblicati non significa disporre materialmente di un libro con una copertina con sopra il tuo nome, che quello te lo puoi fare anche da solo. Significa stabilire una serie di rapporti retti da certe specifiche norme che in linea di massima escludono questo genere di intermediari. Domanda, cosa ci fa supporre che l'iniziativa di cui stiamo parlando rientri in questo discutibilissimo ambito? Beh, per dirne una, la scadenza del concorso letterario riservato ai lettori. Perché se il limite di consegna dei romanzi è fissato al settembre del 96, quando, calcolando un ritmo di due uscite settimanali, gli 80 fascicoli del corso non saranno neanche apparsi tutti, è ovvio che nessuno dei concorrenti potrà sostenere con tutta la buona volontà di essersene avvalso per migliorare la propria capacità letteraria. L'editore non fa appello a chi avrà dimostrato di saper ben fruire dell'insegnamento che fornisce, ma si rivolge a tutti coloro che il loro romanzo hanno già nel cassetto o al massimo agli ottimisti che cominceranno a scriverlo dopo aver letto il primo fascicolo. Il corso, da questo punto di vista, è esclusivamente una scusa. E tutto questo significa non soltanto applicare le normali strategie predatorie della pubblicazione a dispense, fascicoli iniziali a prezzo ridotto con ricariche onerose su quelli successivi, richiesta di pagamenti esorbitanti per copertine e cofanetti, offerte di doni dal valore dubbio e comunque incontrollabile, abbonamenti speciali che in realtà sono normalissimi abbonamenti con uno sconto assolutamente ridicolo, ma fare cinicamente appello significa fare cinicamente appello sotto un pretesto visibile alle vanità e alle frustrazioni delle migliaia e migliaia di aspiranti autori respinti dai criteri rigidamente autoreferenziali cui si attiene l'editoria normale. Non è bello, e che a questa operazione un po' schifosetta si dedichi non un truffatore qualsiasi, non un outsider più o meno laterale al giro della grande editoria come succedeva fino a pochi tempi fa, ma si dedichi il secondo gruppo editoriale del paese, beh, è un segno dei tempi che non fa sperare niente di buono.